Adesso provo a dire bene tutti gli epiteti che mi sono appuntata. Gallerista e curatrice di Boa Spazio Arte Galleria, posso dire? Galleria posso d'arte dire? Contemporanea. Galleria d'arte contemporanea. La sentiamo la Margherita Maccaferri? La sentiamo. La sentiamo io. Forte e chiaro. Forte e chiaro. Galleria di arte contemporanea situata in via Barberia 24. Barra. Sei preparata? Sì. Cap 40123. Si vede quello che fai anche la parte. Lo sapevo anch'io. Perché è lo stesso tuo. È lo stesso mio, ebbene sì. Che al giorno d'oggi bisogna anche sapere i cap. Assolutamente sì. Quindi benvenuta Margherita. Grazie, grazie per l'invito. Un grande applauso senza insomma, virtuale per Margherita. Al fianco di Margherita procediamo in senso antiorario, tanto voi non lo vedete, lo sentite soltanto. Abbiamo qui con noi Cespu. Buonasera Giulia, buonasera Stefano, grazie di averci invitato. Allora, Cespu al secolo non vuole dire come si chiama, si vuole presentare soltanto. Possiamo dirlo. Francesco. Anche perché un po' ci assomiglia, Cespu, sì, no, esatto. Francesco, ci ho messo un pochino io a imparare. Viene accompagnato da, diciamo, un partner in crime, un collega che però non si sa se vuole essere nominato. Sì, sì, dai, sono qui. Facciamolo sentire. Nicolò. Io sono Nicolò, sono il manager e direttore creativo di CESP. Ok, quindi abbiamo un progetto in combo questa sera e invece un progetto individuale ma anche collettivo. Sì, dopo esatto, scopriremo. Esatto, scopriremo un po' di cose. Ah, ok, questa mi mancava. Per esempio, perché io studio dietro il Bene Quinte. Io studio. Molto bene. No, grazie che ci sei tu che studi, perché io. Perché tu devi fare tutta la parte dei jingle ed esatto. Entrare a gamba tesa. Infatti, con cosa? Con che cosa ci entri adesso a gamba tesa? Sono Cesare Pietro Iusti. E stai ascoltando Coxo Spaziale. Mamma mia, con un pathos proprio. Un pathos Pietro Iustiano. Mamma mia, veramente c'è una suspense, una pausa ieratica fra una parola e l'altra. Possiamo andare a intervistarli o vedo che mi guardi interrogativo. Certo. ti ho chiamata per questo, per cui... Vai, non lo so, a meno che non vogliamo ascoltare. No, io ascolterei. Era quello che volevo dirti, in realtà, in maniera silente, un accordo. Aspetta, che qua hanno cambiato un po' di cose. Allora, intanto parto con la prima domanda. Parti con la prima domanda e io ti interrompo subito. Così, esatto. È così qua. Allora, tu fai così, tu parti con la io prima. Io parto. Parto dalla Margherita Maccaferri. Esatto. Allora, due parole di te, chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi e dopo andiamo a parlare. Buongiorno, un giorno verrò fino in fondo a te, scenderò nel tuo animo e ti darò mille baci, tutti così. Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi. Oh, e buongiorno anche a lui. E buonasera. Anche Marco. No, infatti dovremmo chiedergli di dire buonasera ogni tanto. Perché sennò quando lo mandiamo in onda alle ore 20:08 minuti. Esatto. Lui continua a dire buongiorno. Non so se Cespu si sente un po' minacciato da questa presenza musicale di Marco Roma, che è una costante. No, è una costante di Coxo Spaziale. Lui tutti i giorni manda un vocale di questo tipo a Radio Città Fujiko e noi naturalmente non possiamo esimerci dal farlo. Ascoltare porterebbe sfortuna a mio parere, anche secondo me, non mandare in onda lo stacchetto di Marco Roma, ma visto che c'è questi rumori, ma era basso, è un jingle homemade. Allora, visto che Cespu non si sente minacciato, torniamo su Margherita Maccaferri. Allora, diciamo, sì. Curatrice e gallerista di Boa, sì. Spazio Arte, via Barberia, ripetimi il civico. 24 barra. Il cap è 40123, me lo ricordo, invece. Ci siamo. E, come arrivi a questa esperienza di Boa e quando nasce? Allora, Boa, diciamo, nasce nel novembre del 2023. Ho aperto proprio l'attività. Belli freschi, quindi sì, siamo. Sì, sì, sì, ho festeggiato l'anno da poco. Un anno intenso, pieno di cose belle. E devo dire che io ho, diciamo, 10 anni un po' di esperienza tra, diciamo, la mia formazione al DAMS, quindi ho studiato arti visive. Poi mi sono subito, diciamo, indirizzata verso la curatela, quindi l'organizzazione di mostre, il progettare, ideare appunto una tematica su una mostra, i contatti con gli artisti. Ed è una cosa che ho fatto in Italia, un po' anche all'estero, ho avuto varie esperienze lavorative. all'estero, dai, dacci qualche spunto esotico, dai, così, facci scappare, New York. A New York. Ok, l'ho detto. Si può dire me coglioni in questa fascia oraria, diciamolo. Me coglioni. Sì, diciamo che è stata anche quella sicuramente. Scusa, perché adesso vogliamo continuare a Chelsea, a Manhattan. Pensavi in quale borough? Un'esperienza veramente super, veramente super. E niente, quindi fondamentalmente poi ho deciso di insomma realizzare questo mio sogno, insomma, e quindi aprire la galleria d'arte che insomma gestisco io, e mi sono e qualcuno quindi, te l'ha detto che è una follia aprire una galleria d'arte a Bologna, tutti okay. continuano a dirmelo a sgranare gli occhi, però ti dirò che come appunto vi racconterò adesso le cose si muovono. Sì, c'è un sorriso, Margherita, voi non lo vedete, ma è un sorriso che tradisce comunque un certo ottimismo rispetto sì, all'avventura. Sì, chiaro, cioè, non è certo facile, però al di là che appunto è un sogno che sto realizzando, quindi non posso che esserne entusiasta, e in più appunto si muovono un po' di cose, e niente, da quando ho aperto mi sono un po', ho deciso di iniziare aprendo lo spazio agli emergenti, agli artisti emergenti, giovani, e quindi tutto il primo anno fondamentalmente l'ho dedicato a neodiplomati dell'Accademia, non solo di Bologna, anche c'è stata anche Milano, Brera, insomma. Non tutti i studenti di Stefano Pasquini. Non tutti gli studenti di Stefano. Solo la Alessia Cincotto, ecco, che salutiamo. Ciao Alessia. Ciao Alessia. Chi ci vuoi dire qualche nome degli artisti e delle artiste, certo, che durante il primo abbiamo anno avuto Tullia Mazzotti, Gloria Franzin, Gilan Vu, appunto la Alessia Cincotto, Francesco Damiani, una serie, perché ho fatto 6 mostre l'anno scorso. Ah, però. E quindi principalmente poi collettive, quindi proprio mi sono molto divertita a costruire anche con gli artisti le mostre, il dialogo è stato corale, perché una cosa che io amo fare è costruire le mostre insieme a tutte le professionalità, e infatti avevo anche poi collaborato con un collettivo che ci tengo a citare, che è il collettivo GU, che sono delle ragazze che stanno a Bologna, che sono un collettivo indipendente, con le quali avevo appunto organizzato la mostra di Viola Morini a Arte Fiera l'anno scorso, durante il periodo di Art City dell'anno scorso. E venendo ad ora questo momento, veniamo il presente perché, di Boa. Sì, perché è un presente bello pieno di cose. E intanto la mostra che c'è al momento fino al 15 marzo, ancora in galleria, di Flavia Bucci. È una personale, è una ragazza che si è diplomata all'Accademia di Carrara ed è dove lì lavora e vive. È la prima personale che fa a Bologna, quindi insomma ero molto anche contenta di dedicarle tutto lo spazio. E quindi fino al 15 marzo, giorno in cui faremo anche appunto il finissaggio della mostra, quindi siete tutti invitati chiaramente a partecipare, ci sarà l'artista, ci sarà musica, quindi insomma sarà un bel momento. Dice di Spook e suona, no, capito? Non ci sarà. Adesso che ci conosciamo, magari, anzi volentieri. È tutto un network, è tutta una rete, questa radio città Fujiko. Vuoi un po' d'acqua in regia per caso? Ok, non ti preoccupare. Ho abbassato i microfoni. Ah, benissimo, vedi che io subito ho rovinato tutta la magia. Della radio. Non c'è problema, stavo scrivendo sul mio calendario il finissaggio. Sì, Boa. Quindi appunto tutti invitati. No, io ci tenevo che Boa si proponesse la città come luogo però anche molto aperto, quindi togliere un po' quell'idea della galleria d'arte come, no, White Cube, un po' quasi che hai paura, settico, silenzioso. Ecco, no, invece mi piace che sia un luogo veramente aperto, colorato, dove viene scaturita proprio la curiosità senza filtri, quindi anzi le collaborazioni sono assolutamente benvenute, anzi le sponsorizzo molto, e infatti anche per questo ci tenevo a citare questo collettivo che si è creato da sé, proprio è nato spontaneamente, ed è un collettivo di gallerie che stanno tutte attorno, diciamo, certo, tra via Barberia e diciamo via Porta Nova. Quanti come... siete? Cinque? Siamo, no, quattro. Siamo quattro gallerie d'arte, quattro. E in realtà c'è anche un altro spazio che vende dei frappè, ma non c'entra niente. No, in realtà anche quello è un mix perché Tiro Production fanno, è una casa di produzione cinematografica, ma all'interno fanno anche, c'è anche un Lupus Records, che è il negozio di dischi, non so se non ragazzi li conoscono. In che via? Quelli stanno in via oddio non mi viene lì di fianco da via Barberia, sì, adesso mi a Vesella, via Valdaposa, via Valdaposa ci siamo arrivati, scusate, chiaro. No, perché io la geografia della nostra città, no, nonostante i miei via Vesella 40 anni, via Valdaposa. Scusate, via Valdaposa non mi veniva, via Valdaposa 1, quindi okay. Cioè in realtà si è proprio creato un piccolo distretto dell'arte contemporanea, perché noi tutti lavoriamo con l'arte contemporanea, quindi oltre a Boa Spazio Arte ci sono Onirica, Porta Nova 12, Magazzeno, Bonobo Labo, certo. E poi appunto abbiamo voluto anche inserire quest'altra realtà creativa, quindi è comunque arte contemporanea, insomma abbiamo pensato di non chiuderci solo all'idea delle gallerie, ma aprirlo anche ad spazi. E dunque la G7 che è in via Valdaposa anche lei vi snobba? No, adesso okay. Il progetto è aperto, nel senso che abbiamo appena iniziato. No, anche perché poi se prendete anche la G7 dopo a quel punto anche adiacente che è lì di dietro. Per sì, cui cioè in realtà infatti sono chiaramente gallerie più già storiche, strutturate, noi, certo. Noi siamo tutti bene o male neonati, a parte Porta Nova 12 che sì. È già da un po' di tempo che è aperta. Però insomma ci siamo proprio trovati lì tutti vicini, ci siamo parlati, mi hanno detto ma perché non facciamo viaggiare cose da soli? Perché ognuno deve viaggiare da sé. E quindi questo, ci siamo dati questo nome che è Supernova, che è molto che bello, vuole molto proprio bello, ricordare infatti, grazie, che vuole proprio ricordare anche il Torresotto di via Porta Nova, che architettonicamente diciamo anche il più rappresentativo della zona. Però e no, quindi faremo cose insieme, cioè nel senso immaginatevi come potrebbe essere una white night durante arte fiera, però riproposta in un altro momento dell'anno, in cui in una stessa serata hai cinque gallerie comunque aperte che propongono la loro programmazione, i loro artisti, e poi c'è anche compreso un bar, perché non può mancare, certo. E quindi Electrobau. Super. Che è appena all'inizio di Nosadella, quindi anche lì siamo tutti in zona, che è un bar anche lì molto creativo dove fanno musica dal vivo e a cui noi abbiamo chiaramente prestato dei pezzi dei nostri artisti, in modo che ci sia proprio uno scambio. Ma mi sembra una cosa bellissima, un circuito virtuoso. Ma quindi, è arrivato il tempo di ascoltare un pezzo di Cespu, abbiamo citato perché musica. Siccome sono le 20:20 e io quanto devo stare dietro, quanto ci piace chiacchierare, come direbbe, poi non la finisco. No, mi ero un attimo appassionata a questa idea di una piccola art city dove non devi impazzire per vedere tutto e quello quindi finire per non vedere niente. Una mappina con 5 gallerie anziché 37 o 184, cioè una mappina medievale come la nostra città vorrebbe. Andiamo su Cespu. Io invito Cespu a inforcare la chitarra e a farci così così a secco, perché io sono da chiacchiere invece tu giustamente no, stai sto, da tempistiche. Sto guardando l'orario e visto che sono le 20:21 adesso non so, spero che non mi faccia una canzone di 14 minuti, non si sa. No, Cespu, no. Adesso ci sorprende, al giorno d'oggi le canzoni sono abbastanza brevi. Che cosa ci fai sentire oggi? Allora, comincerei con Garisenda, anch'io, visto perché sta per crollare, dunque... anche perché abbiamo appena parlato di torri e torresotti, quindi appunto, ci casca veramente a fare. Presumo che tu non voglia la musica di sottofondo mentre canti, per cui la abbasso e abbasso anche me stesso. Vai. Garisenda. Allora, Garisenda. Non la introduco. Vuoi dire due parole per rilassarti? Dopo. Dopo, dai, prima la. Sono in crisi col mio sesto senso. Non riesco ad orientarmi senza il 5G. Adesso che i telefoni crescono più in fretta, dei miei baffi ancora futili. Vorrei fossero porno, vorrei svegliarmi un giorno e sorridere così. Con i tuoi occhi falafel, verdi e marroni, che questi giorni grigi hanno rotto i coglioni. E giro come un vagabondo, che non trova il suo posto nel mondo. Quando sembra andare tutto storto, pensa alla Garisenda, che fine di merda. E quando sembra andare tutto a pezzi, come i miei amici ubriachi lerci. Pensa alla Garisenda, che fine di merda. Che fine di merda. Ah. Da quando si sono alzati gli affitti convivo con la FOMO. Non vivo più da solo, non vivo più. Da quando pago le bollette mangio di meno per le sigarette. Cerco i tocchi falafel verdi e marroni che questi giorni grigi hanno rotto i coglioni. E giro come un vagabondo che non trova il suo posto nel mondo. Quando sembra andare tutto storto pensa alla Garisenda, che fine di merda. E quando sembra andare tutto a pezzi come i miei amici ubriachi lerci, pensa alla Garisenda, che fine di merda. Che non trova il suo posto nel mondo. E quando sembra andare tutto storto pensa alla Garisenda, che fine di merda. Ma grande. Grazie, grazie. Mi sono un po' importato, vabbè. Fantastico. Beh, vabbè, ci sta. Bravissimo. È la tua prima volta in radio? Sì, è la mia, in realtà la mia seconda, perché okay, ho già fatto un'intervista una volta, però, però bisogna fare prima pratica, volta con un musicista dal vivo, ma no, è fantastico avere un musicista. È meraviglioso, cioè, se non riuscivo. A... Sì, no, alle volte abbiamo avuto anche uno con la batteria, basso, chitarra elettrica. Fa entrare qui dentro. Abbiamo infilato tutti lì dentro. Tra l'altro, scusate, arriva lui, adesso loro non lo vedono all'ascolto, ma c'ha sto capello, sto baffetto, in questo momento in cui è appena uscito Complete Unknown. Con la storia di Bob Dylan mi sono emozionata. Certo. Vedere lui che viene a avere il nuovo pezzo, ce lo viene a raccontare. Tra l'altro non l'ho visto, lo devo vedere. Mi manca. Beh, non lo so, io lo andrei a vedere per due invischiati, sì, in un progetto musicale come il vostro. Bellissimo questo Garisenda. Grande, no, no, gran pezzo. Complimenti. Grazie. Quando è uscito? Allora, è uscito questo venerdì. Stamattina. Quindi lo potete... No. Beh, questo venerdì non è che sia molto. Sì, tipo tre giorni fa. Lo potete trovare su Spotify, Apple Music, tutte le piattaforme. Non so se si può dire. Si può dire. Ogni volta che dici Spotify sono 5 euro che di multa che ci arrivano, ma, noi, ma si può dire. E sì, paghi no, tu, no, naturalmente. Esatto. Beh, chiaro, tanto io sono benestante come tu. Vabbè, sulle piattaforme digitali, sì, no, trovare. No, figurati, ma anche su YouTube, naturalmente. Perché sì, c'è chi snobba Spotify. C'è chi ancora ascolta la musica su YouTube. Eh sì. E tra l'altro, ma grande mamma, grande salutiamo mamma anche la mamma di Cespu, esatto. Tra l'altro. Assolutamente. Ci stavamo dicendo prima, avete anche fatto un video di questa canzone, sì, ho ah, capito wow, bene? C'è già, super. Cioè, è già uscito, Nicolò cedi la parola? Sì, sì. Però dai, stai lì a sorvegliare come un angelo custode, vai. Allora, questo video è un video che abbiamo pubblicato su Instagram che annuncia l'uscita di Garisenda. In pratica abbiamo voluto fare un gioco di ombre cinesi misto burattini, dove raccontiamo un po' quella che è stata la storia in cui Dante ha scritto anche lui un sonetto per la Garisenda. Me l'ha detto un nostro amico questa cosa qua, io non la sapevo. C'è anche ho approfondito sulla un po' adesso, esattamente adesso, soltanto che adesso non lo puoi vedere perché è coperta, però c'è scritto sui cartelloni anche del cantiere, ah, okay, no, quelli mi mancavano, che non è che mi sono messo lì a leggere, io leggo tutto, ah, tutto. Nel dubbio non possiamo vedere l'originale, quindi che fine di merda, esatto. Però no, in effetti comunque l'avevi sentito come vibrazione, no, sì, esatto, quei container non si possono vedere, purtroppo. Sì, no, certo. No, anche perché comunque, cioè, una canzone porta fortuna, no? Infatti adesso non appena crolla, tu è fatta e hai un miliardo di visualizzazioni. È la tua svolta, esatto. Quasi dovresti augurarti che sia accelerata. Io spero che non succeda, perché l'altro giorno ho postato appunto questo video su un social dove si promuove abbastanza la musica e Matteo Lepore in persona ti ha scritto come ti permetti. No, però ci sono degli abitanti sotto la torre che mi fanno: dai, bella la canzone, ma speriamo di no, perché sì, no, in effetti salutiamo Simone Menegoi che abita esattamente lì ed è uno a cui hanno dato le indicazioni per l'evacuazione. Sì, mamma sì, sì. Mia, che fine di esatto. veramente. Vai, speriamo di no, speriamo di no, tanto raggiungerai milioni di visualizzazioni anche senza il crollo della Garisenda, anche perché è veramente bella. Infatti. E sei bravo, guarda, mentre venivamo in macchina non l'avresti detto. Ingazzando. No, non è vero. No, l'avrei detto, però vederlo e ascoltarlo dal vivo, Totò Natarquel comunque. Grazie. possiamo andare avanti con le chiacchiere? Possiamo andare avanti con le chiacchiere, abbiamo tre minuti di chiacchiere per cui, con cui andare avanti. Vorrei sapere anche appunto questa canzone un po' come nasce, al di là del video che ci stavi raccontando, come nasce e un po' ne parlavamo prima fuori onda, cioè Garisenda va da sé, qual è un po' la tua relazione con questa città, visto che delle due torri hai scelto quella messa peggio per raccontarla? Esatto. No, allora, innanzitutto vorrei partire col fatto che io quando mi sono trasferito a Bologna non c'ero mai stato, ho preso casa senza averla mai vista, volevo scappare, sono arrivato a Bologna e l'ho trovata davvero bellissima, tant'è che mi sono appunto innamorato di questa città e ho scritto un album che è tutto incentrato su Bologna, che uscirà poi più avanti, annunceremo cosa. Ma scusa, ma io lo invito a Narrando Bo a questo punto. Vabbè, quello so. Voglio dire, un attimo di conflitto di interessi, sì, no, però. So, questi sono coxi tuoi. Dopo facciamo un coxo privato e ti invitiamo da un'altra parte. E il manager subito guarda Nicolò, silenzioso ma solerte, esatto. E ne parliamo. Organizziamo. Garisenda è nata in un periodo in cui stavo molto bene, continuavo a uscire tutte le sere piuttosto che studiare, fare festa, grandi serate. E ho qua conosciuto lo spirito universitario di chi viene veramente qua per approfondire la cosa. Sei giovedì a settimana e una domenica come il paese dei balocchi. No, in pratica era un periodo in cui stavo molto bene e ho conosciuto tante belle persone, zona universitaria, quei posti lì, che mi sono reso conto mi hanno aiutato a affrontare tante piccole difficoltà di cui io parlo nel pezzo, che senza sarebbero state molto più grandi. E la metafora della Garisenda è un po' un faro nella notte, che quando ti senti perso la guardi, la vedi lì storta ma che resiste, e quindi dici dai. Comunque, facciamo come la Gari, resistiamo. Nel caso Matteo Lepore fosse all'ascolto, 333 180 94 94, può mandarci, intervenire, può mandarci un vocale quando va, un vocale anche un WhatsApp, volendo le diamo in voce noi, esatto. Qualcosa sui cantieri, perché non sulle telefoni torri. Perché io le telefonate non le prendo. Addirittura sei, sì, così selettivo? No, è che non sono capace di usare il raccoglitore delle telefonate, perché è una selezione naturale, allora è proprio, esatto. Siamo beh, quindi alla fine questa fine di merda in realtà è un po' anche una virtù, quella della Garisenda, cioè è un po' sfigatella, però è quella che ti fa anche più simpatia, mi sembra, esatto, di capire. Come dicevo nel video, c'è lo stesso Dante Alighieri, quando scrisse il sonetto alla Garisenda dice proprio che si sarebbe strappato gli occhi per aver scritto della Garisenda e non della Sinelli, che è quella poi più importante, e quindi mi sono domandato appunto cosa ci fosse di così affascinante in una torre praticamente quasi sbagliata, una bellezza sbagliata. Sì, no, è nata proprio sfigata, perché mentre la stavano costruendo hanno dovuto smettere perché sarebbe crollata. Per l'hanno pure mozzata nel 1350, sì, tra l'altro. Sì. No, è così. Detto questo, io mozzo voi invece, perché ecco, ci sono le pubblicità delle 20:30. Io lo sentivo che stava arrivando sta spada di Damocle. È così. Però non ci mozzi, noi possiamo andare avanti e possiamo parlare di qualsiasi spaziale. Cosa. Sì, è una trasmissione, no? Mi ero distratto un attimo. Tanto per cambiare, ci porti tutti fuori fase. Come si dice? Fuori fase, siamo qui, ci fai chiacchierare, poi sedia. Ci stronchi. Possiamo ritornare alle nostre chiacchiere? Ritorniamo alle nostre chiacchiere. C'è qualche jingle che deve entrare a tradimento? No, perché sennò non è a tradimento. Quando sono pronto io. Allora, tornerai un attimo da Margherita a questo punto. Anch'io. Dai, dopo che abbiamo sentito quella gran voce che c'ha Cespu, perché grazie. Veramente, per chi spero che l'abbiano sentiti, quelli che ci stanno sentendo adesso, se no lo risentiranno dopo. Esatto. Dico giusto? Dico o comunque giusto. Possono andare su coxospaziale.blogspot.com e riascoltarlo da domani. O comunque possono andare su tutte le piattaforme. Esatto. No, tutte le piattaforme no. Tutte, vabbè, no. Quelle principali dove so andare no. Pure io. No, solo coxospaziale.blogspot.com. No, dico se la voglio sentire stasera, che non si tengono fino a domani mattina. Basta cercare Cespu. Cespu online e lo da trovi. Domani mattina mai più sulle piattaforme, solo su Coxo spaziale. No, dicevo quella dal vivo, perché poi quella registrata la trovano. È uscita venerdì scorso, non so se ma è già un po' banalotta. Sì, me lo ricordo. Sono anzianotta, ma non ancora così tanto. Okay. Tornando a Margherita Maccaferri, invece, di Boa Spazio Arte. Tra l'altro, una cosa che prima volevo chiederti, non te l'ho chiesta, perché Boa? Scusa, perché se Boa... tu scegli Boa, poi vuoi che te lo chiedano. Ma infatti, no? è giusto, ma ci tengo anche a spiegarlo, perché secondo me è bello. E no, Boa voleva, allora, intanto volevo un nome che fosse abbastanza breve, che si ricordasse. Bello, e... ma non ci vivrei, insomma. Ecco, che ricord... in qualche modo ricordasse Bologna, quindi il Bo ci stava, però pensando in realtà l'idea della boa, quindi non il serpente ma la boa in mezzo al mare, e ognuno infatti decide quale delle due prima, però no, nella mia testa era la boa come immaginario di qualcosa che sta in mezzo al mare e che può essere un attracco o comunque anche una partenza, perché ricordiamo che io parlo, insomma, trattando di artisti emergenti, poi la mia speranza, cioè, tu li getti in mare di farli poi partire, okay, per un viaggio bellissimo nel mondo dell'arte, che come sappiamo insomma non è facile, però ecco, mi piaceva questa idea di questa immagine della boa. Galleggiare è una gran bella cosa, infatti, cioè viene considerato sempre un arrancare, il galleggiare invece è una delle sensazioni più belle che si possa, è un po' la stessa immagine della garisenda alla fine, la boa, sì, può, esatto, essere una cosa d'aiuto, ma può avere un risvolto positivo. E come sta andando? Sta andando bene, ti dirò. Perché lo sa, cioè, lo sappiamo tutti che è una follia aprire uno spazio di arte contemporanea a Bologna, come abbiamo già sentito tutti i galleristi che sono venuti qua a Coxo Spaziale, gliel'ho sempre detto. Ma così come anche dare vita a un progetto musicale, ma così. Sì, vabbè, ma il progetto musicale, almeno, voglio dire, ok, il costo di una chitarra è poco alto, però voglio dire, aprire una galleria ha degli, sì, delle implicazioni, sì, economiche. Sì, è vero, è, sì, un po' una pazzia, bisogna avere un po' di coraggio, me lo dico, sono stata abbastanza coraggiosa, però cioè, se lavori bene, piano, mettendo un passo dopo l'altro, la risposta arriva. Io devo dire che in un anno e poco, perché ripeto, ho aperto a novembre del 23, quindi un anno e tre mesi, comunque ho avuto un'ottima risposta, anche e soprattutto, che secondo me è importante in questa fase, dai colleghi e dagli artisti in primis, prima che sono che, un ambiente spietato, prima, diciamo, che la manica di stronzi, come l'hai solo detto nel, tu, come l'hai solo detto nel tu, mondo della sono, moda sono, cioè, appoggiata là, esatto. Quindi prima ancora che un aspetto, diciamo, che l'aspetto commerciale, è appunto questo dare qualcosa, cioè, che è una buona vibrazione di ritorno. Torna, e infatti adesso per citare altre due cose che comunque per me sono state importanti come step, c'è stata, mi hanno invitato alla fiera di Torino, di Others, diciamo la fiera quella off. Ah, super. E ho anche partecipato quest'anno a Booming, che è la fiera off di Bologna durante Arte Fiera, quindi insomma anche lì devo dire che c'è stato un bel riscontro, perché l'artista a Booming, che avevo, una delle tre ragazze che avevo portato come artista, Tutulia Mazzotti, ha vinto il premio Doc Creativity, che era proprio il premio Booming, cioè come l'opera che rappresentava in modo migliore lo spirito della fiera. Quindi secondo me questo è un grande, cioè, diciamo, che quando scegli un cavallo vincente, sì. Madonna, ma questa espressione non so da dove mi sia uscita. Ippica, se non lo sai tu. Un'espressione ippica assolutamente adesso, fuori luogo, però per dire è una bellissima sensazione, ed è credo molto importante anche avere, ripeto, prima di un qualcosa di commerciale, il ritorno e l'ok anche da colleghi, altri galleristi, altri curatori, cioè aver riconosciuto il fatto di aver fatto comunque fino adesso un buon lavoro. Poi chiaro, a parte commerciale lo sappiamo tutti, è difficile, però anche lì le cose piano piano si stanno muovono. Muovendo. Sì, e quindi gli appuntamenti prossimi, allora, dopo il finissaggio di, ricordami, l'artista Flavia Bucci. La mostra si chiama Che cosa sono le nuvole, e appunto la chiudiamo il 15 di marzo. Subito dopo andrò a Cremona, alla Fiera di Arte Contemporanea di Cremona, anche quella è una piccola fiera dal 20. Dicono che sia una piccola crema. Esatto, e non solo per la città. Comunque sì, molto, molto ben curato, un bijou, per cui anche lì presenterò tre diplomate di Bologna, dell'Accademia di Bologna. Quindi. Sei una talent scout. Sì. A me piace, è proprio quello che mi piace fare. Vabbè, allora direi che sei sulla quindi strada giusta. Sto facendo quello che più amo, diciamo, e credo di essere molto fortunata di poterlo fare, insomma, veramente lavorare con qualcosa che ami. E con queste ragazze devo dire si è instaurato un bellissimo rapporto e dinamiche proprio in cui ci sosteniamo a vicenda e stiamo cercando devo dire di... che a me fa molto piacere per esempio che lavori con tante artiste, sì, perché tante, in effetti è ancora un po' sbilanciata la faccenda, sì. Non tanto a Bologna ma in generale nel mondo dell'arte, per cui ci vogliono galleriste donne che lavorano con artiste donne. Netta maggioranza, non è una, cioè non è una scelta politica, no, certo. Il termine, nel senso che anche scelgo. È una scelta spontanea. È proprio spontanea, evidentemente. Beh, è anche una scelta percentualistica, nel senso che comunque in Accademia ci sono la percentuale di ragazze è 9 a 1. Circa, però 10. Magari non tutte le gallerie vengono. No, infatti, ma infatti la cosa di cui io spesso mi lamento appunto è questo, che in una classe di 50 studenti, di cui 48 studentesse, due maschi fanno la mostra, sono due maschi e due femmine, capito? E dice, c'è qualcosa che non quadra proprio. Con queste però, quote insomma, azzurre. Diciamo che sta leggermente migliorando la faccenda. Io devo dire che insomma sono entrata in grande empatia con loro e poi insomma parte del mio lavoro è quello poi di accompagnarle, di farle crescere, di che dobbiamo crescere insieme, quindi non sono mai delle cose spot quelle che, cioè nel momento in cui inizio una collaborazione con un artista è perché credo nel suo lavoro, credo in quello che fa e quindi voglio portarla assolutamente avanti. Alessia 58 è già 1,85 così, speriamo che non cresca e non la faccia crescere troppo. però io da profana del mondo dell'arte devo dire, sentire una curatrice che parla così, no, anche a me fa molto piacere, è un po' quello che dovrebbe essere il vostro lavoro, o se si sente di solito mentono spudoratamente invece io qua ci sto provando ripeto insomma appunto le cose arrivano, appunto questo appuntamento a Cremona in cui porterò appunto queste quattro ragazze dell'Accademia, Gloria Franzin, Tullia Mazzotti, Gilan Vu e Roberta Sorbo e poi ci sarà la mostra successiva che inauguro il 28 di marzo con Manuela Vallicelli, che è una pittrice che sta a Ravenna di base e quindi sarà tutto dedicato alla sua pittura anche di grandi grandi formati, atmosferismi, elementi naturali, dal 28 di marzo. Vabbè, quindi è un calendario serratissimo, un molto po' fitto. Come la nostra scaletta io ti proporrei un altro pezzo di Cespu e poi andiamo con l'angolo della menzione. Cosa ne dici? Io dico che facciamo no, quello perché che sennò il rischio è che poi non ci sia abbastanza tempo. Assolutamente. Vogliamo sentire la canzone di Cespu? Vogliamo sentire una canzone che non sia Galisenda. Dai, perché allora l'abbiamo già sentita. Ve ne faccio sentire due in una. Due in una, grande. Grazie. C'ho un mashup tra due pezzi inediti. E qua attenzione, cavoli, perché attenzione che qua lo sentirete. Scatta il casù, sta scattando il casù. Se adesso ci stende tutti quanti. Però senza cuffie voi tanto mi sentirete lo stesso. Noi ti sentiamo lo benissimo. Voi fidatevi ciecamente del mio mix, io tenterò di non uccidere le orecchie di nessuno. Vai. Allora, questi due pezzi si chiamano Gatti in ordine Settembre Bike. Il secondo fa parte di un progetto che uscirà più avanti. Il primo resterà inedito, magari esce su SoundCloud, chi lo sa. Fa così. Io sono allergico ai gatti e mai mi perdonerei 3000 notti a grattarmi per colpa di sguardi felini nei miei occhi troppo deboli per le tue fusa. Oh mia gatta, grandissima musa, e ti chiedo scusa, ma non mi perdonerai. E mi bruciano gli occhi attacchi quando mi tocchi, mi graffi la mano, mi mordi un po' a caso e ti lecchi le ferite delle sette vite che non ho vissuto mai. Odio tutte quelle come te che fanno mia. Che sta le sbloccata. Scatta il semaforo, rosso come le foglie che dipingono questo asfalto un po' nemico. Mamma fammi un bonifico che ho preso già tipo sette mobile per andare tre volte da lei a sentirmi ridicolo. Dopo un bacio cringissimo e mi sento uno stupido, ma il paesaggio è bellissimo, Instagram era il cassonetto dell'umido. Sotto la porta del tuo palazzo sembrerò pazza, Bolognina di notte in cerca di una mobile, eppure non mi stanchi mai. Papparabba, ralilarirà, ratta, ralilarirà. Settimo bike e gatti. Settimo bike e gatti. Vabbè, ma una scoperta dietro l'altra. No, ma infatti veramente assolutamente meravigliose. Veramente so, siamo anche un po' viziati dal fatto che mentre canta io vedo tutte le strade, tutte le mobike che non funzionano, esatto, che non stanno e sbloccate. Però veramente belle, complimenti. Grande. Bravo. Grazie. Quindi l'angolo della menzione. E quindi ero già pronta a chiacchierare. E invece no, e invece bene. Cosa succede? Che il martedì, che è domani, al 4 marzo, a cavoli, domani è il compleanno è di Lucio, Lucio. Ah, cavoli, va bene. Dopo metto lui come musica chiusura. Di sottofondo. Ah, come sottofondo. No, come chiusura abbiamo Garisenda registrata. Si caffi. Ma non possiamo sentire un'altra, ormai voglio sentire di tutto. No. Comunque, non ci distraiamo. Domani alle 17:30 abbiamo la presentazione del libro 101 cose da sapere sulla pittura dell'Ottocento a Bologna. Intervengono Eva degli Innocenti, direttrice del settore Musei Civici di Bologna, Roberto Martorelli, curatore del volume, Ilaria Chia, Francesca Sinigaglia, Isabella Stancari, coautrici dei testi del volume. Tutto questo all'oratorio di San Filippo Neri in via Manzoni 5, ad ingresso libero, ed è domani alle 17:30. Passando a venerdì 7 marzo dalle ore 15:30 presso Palazzo Davia Bargellini, una chicca incredibile. Infatti, quel posto è veramente una crema, veramente. E poi non solo, appunto, andiamo a scoprire una dimora riscoperta. All'ingresso del Museo Davia Bargellini si apre uno scalone monumentale che ha richiesto decenni per prendere forma. Pochi hanno il privilegio di percorrerlo e scoprire cosa c'è al piano nobile del palazzo. Questa è la tua occasione. Partecipa ad una delle visite guidate in calendario che sono a cura di Antonella Mampieri, conservatrice del museo. Tutto questo naturalmente presso il Museo Civico d'Arte Industriale Galleria Davia Bargellini in Strada Maggiore 44. Prenotatevi. Invece sabato 8 marzo dalle ore 18 alle ore 19 abbiamo Spirit Cabinet, una videoinstallazione sonorizzata dal vivo. L'associazione culturale Alchemilla ospita nella sua sede di Palazzo Vizzani la proiezione della videoinstallazione sonora Spirit Cabinet, nata da un'idea di Maurizio Finotto e sonorizzata dal vivo dal collettivo di improvvisazione musicale Minus. È stata realizzata da studenti e studentesse del corso di linguaggi del cinema e dell'audiovisivo come progetto culturale didattico della Accademia di Belle Arti di Bologna. Tutto questo ad Alchemilla, Palazzo Vizzani, in via Santo Stefano 43 a Bologna. Arriviamo a sabato 8 marzo alle ore 18, Stefano Scheda, fuori e dentro zona rossa, a cura di Angela Madesani, il Pomo da Damo Contemporary Art Gallery, via 20 settembre 27 Imola. Questa è veramente come dire essenziale, essenziale. Come... sappiamo solo questo, non sappiamo altro. Mentre invece domenica 9 marzo dalle 16 alle 17 il Dipartimento Educativo del Mambo propone una visita guidata per adulti alla mostra personale di Carlo Rama. Io dico per adulti perché ci sono dei gran cazzi in quella mostra. Ma nel caso vi interessassero, a Villa delle Rose, Carlo Rama Unique Multiples, curata da Elena Re, che rientra nel programma istituzionale di Art City Bologna 2025 realizzato in occasione di Art Fiera. La visita è gratuita, la prenotazione è obbligatoria e si effettua scrivendo a mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 di venerdì. Tutto questo è appunto domenica alle 16 a Villa delle Rose in via Saragozza 230 a Bologna. E torniamo finalmente a fare le chiacchiere che volevo fare. Esatto, possiamo, abbiamo fatto le menzioni speciali, le menzioni, l'angolo della menzione. Torniamo da Cespu. Allora, abbiamo sentito un medley di pezzi che sono già usciti non sono ancora usciti. No, spiegaci, quando usciranno? Allora, Settimo Bike sicuramente uscirà. Devo ancora capire quando, perché sto addirittura pensando... non si sa nemmeno quando. No, perché lo vorrei far uscire assieme a un suo videoclip sui social e tenerlo inedito come traccia nell'album. Per cui stai aspettando sempre Mobile. Esattamente. E Gatti invece non so neanche se uscirà, se uscirà su SoundCloud. E ci hai fatto sentire una cosa che può darsi che la gente non senta mai più. Non si sa, c'è un'esclusiva totale di Coxo Spaziale. Sei contento, Stefano W. Pasquini? Potrebbe essere che Coxo Spaziale abbia un'esclusiva al 100%. Non sarebbe la prima volta. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Va bene, tutto senza entrare a tradimento. Sì, però no, in effetti mi stavo 10 minuti prima. No, il basso livello di radiofonia in realtà sta continuando e continua imperterrito. No, stavo cercando la musica di sottofondo con Lucio, ma non ce l'ho. Al posto di Lucio Dalla è entrato il direttore, va bene lo stesso. Dicevamo, può darsi che questi siano dei total esclusivi di Coxo Spaziale, mentre invece che prossime ascoltare naturalmente. Allora, prossime uscite in calendario. Nicolò, fate sai le domande difficili, insomma. Ma no, mi ha detto prima che era molto preparato, quindi. Ma io studio, vai. No, sì, allora tra un mesetto facciamo uscire il prossimo pezzo che dopo, se abbiamo tempo al volo, ve lo faccio, si chiama Pam. Questo subito per me piace anche al nostro amico Claudio Marra che ci sta ascoltando naturalmente. Perché è appassionato della PAM? Perché lo incontro sempre alla PAM. Ma tu vai alla PAM quella di via Marconi Angolo Rivareno, certo. Per me la PAM è quella. Invece prima mi stava dicendo Cespu che non è quella la sua PAM di riferimento. Vedi? La mia PAM è quella in via Bellaria, però devo dire che comoda. C'avevo la sede dell'università in Azzagardino, quindi ho fatto sbazzicato spesso anche in quella in via Marconi. Ok. E poi dopo Pam stavo pensando sempre un mesetto dopo di far uscire un altro singolo, prenderci una bella pausetta per l'estate e poi dopo l'estate magari estate concerti, date, abbiamo qualcosa, stiamo pasturando. Stiamo iniziando, se ci volete contattare per organizzare cose. Vi ho già in mente una daterella, poi ne parliamo fuori onda perché gli affari Vabbè, adesso non mi sminuire così, non sai ancora che tipo di offerta ti sto lanciando sul tavolo. Appunto. La ritiro immediatamente. Manager, mi raccomando. No, cosa volevi dire, Cespu? No, che tra l'altro, se posso parlare con quelli che ci stanno ascoltando da casa, che io sto cercando dei musicisti per appunto suonare poi live. Un open call. Bellissimo. Se vogliamo, cosa ti serve? Band, musicisti, quelli che ci sono vengono, noi svarioniamo. Ma pure quelli che fanno il triangolo, li chiamiamo tutti. Ukuleli, sbizzarritevi. Timpani e fagotti, vi aspettiamo qui sotto. Via Zanardi. Qualcosa da fare si trova. Ho capito. Io un oboista lo conoscevo. Però ce l'hai? A Rastignano, non so se ancora. Se c'è, beh, comunque, se Rastignano, lui sta in via Bellaria, sì, almeno la stessa parte della città. Io, sinceramente, so suonare la maracas, se ti serve, però vengo volentieri. Un po' di ritmica. Un po' di ritmica, bisogna vedere se la faccio a ritmo. I musicisti non mancano. i musicisti, no, infatti, forse puoi trovare qualcuno di meglio. Vedi subito la curatrice come indirizza nella direzione giusta. I coinquilini di Elisa Zanta, che era qua la settimana scorsa, erano tutti e tre musicisti, per cui insomma, assolutamente. Però devo dire che è difficile trovare musicisti con cui si riesce a suonare bene. È difficile trovare musicisti che abbiano voglia di suonare con te, che è diverso. Insomma, non è proprio la stessa cosa. Alla fine abbiamo un po' tutti influenze diverse, ascolti diversi. Certo. Infatti, io questa cosa che volevo chiedergli, ma da dove pigli un po' di ispirazione tu quando vai a scrivere Settimo Bike? Ma Dante Alighieri, musicalmente, anche se Dante è musicalissimo. Un artista che mi ha forgiato molto è un artista che tra l'altro studia a Bologna, si chiama Giuseppe Delizia, non so se conoscete. Certo. Io lo conosco, me l'ha fatto conoscere Nicola, mio figlio. Vedi che tu hai un gancio in più con... Sì. Super fan io. E poi in questo periodo mi sto ascoltando un sacco e sto approfondendo Bennato. Mm-hmm. Infatti in questo caso è un po'... Bennato e Edoardo, non Edoardo, perché Bennato, sono due sì. Bennato. No, Edoardo. Perché anche l'altro è interessante. Eugenio. Il fratello. Sì, Eugenio fratello. Bennato. L'ho sentito per caso in Calabria 2 anni fa. Cioè, ha fatto un concerto che spaccava proprio. Sì. No, veramente tostissimo. Molto musicale, meno rock and roll, meno cantautore, però anche Eugenio non scherza, insomma. Gli anni d'oro di Eugenio Bennato erano notevoli. Ci andiamo ad ascoltare. Però anche un Cespu che ascolta Edoardo Bennato non me l'aspettavo, per esempio. Che c'è il raccontare le fiabe, ma è un po' il trattare la canzone come una canzoncina, cioè alla fine sono tutte canzoncine, poi il significato glielo diamo noi per le cose che proviamo nei confronti di quello che viene detto nella canzone. Potremmo finire con Sono solo canzonette, ma invece finiremo con Garisenda registrato, perché finalmente i nostri fans di Cespu lo possono sentire. Ma volevo dire, visto che abbiamo un mezzo minuto. Abbiamo un mezzo minuto? Un minuto pieno, dai. C'è qualcosa che volete aggiungere? Margherita? Diteci. Cosa voglio aggiungere? Gli appuntamenti li abbiamo detti. Ripetiamo. L'appuntamento, così insomma chi ci ascolta se lo segna. Carta e insomma, penna. Vi aspetto numerosi il 15 di marzo al finissaggio della mostra di Flavia Bucci a Boa Spazio Arte, che appunto sarà anche un momento dove sperimenteremo probabilmente il collettivo Supernova. Quindi oltre probabilmente a me ci saranno anche le altre gallerie che comunque proporranno qualcosa, sempre con l'idea di fare network. Quindi potrebbe essere già una prima tentativa di White Night. Bellissimo. No, perché in effetti a me era arrivato la comunicazione del collettivo Supernova, però siccome non succedeva niente non sapevo come infilarlo nell'angolo della menzione. E adesso? Ma adesso che trovato? Arriverà. E comunque arriveranno sicuramente comunicazioni, perché appunto è una cosa su cui noi teniamo tanto. Credo che sia una cosa nuova, quantomeno anche su Bologna, ecco, un nuovo distretto dell'arte che si è veramente formato così spontaneamente. Abbiamo deciso di collaborare perché è un po' l'unione, soprattutto oggi che si fa, appunto, come abbiamo detto, fatica, fa la differenza. Fare network è molto importante. È importante e difficile in questa città. Assolutamente. Ci vediamo. Cespu, cos'altro devi aggiungere? Cos'altro ci vuoi dire prima di risentire Garisenda? No, in realtà vorrei invitare gli ascoltatori a cercare di, ma in generale in tutti gli ambiti artistici, di scoprire gli artisti e non di prendere sempre quelli che ti arrivano quelli in modo passivo, passano. Perché c'è tanta bella roba nascosta dalle nostre case. Smettete di ascoltare gli sconosciuti di Coxo Spaziale, ma andateveli a cercare da soli. No, però dai, su questo Coxo Spaziale devo dire che un pochino ci prova. A far girare delle cose belle come Cespu, di cui ascoltiamo adesso, naturalmente Garisenda Super Mix. E vi salutiamo. Quindi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Grazie anche a Nicolò che c'è sempre stato qua. È stato presente. Secondo il sesto senso, non riesco ad orientarmi senza il 5G. Adesso che i telefoni crescono più in fretta, dei miei baffi ancora futili. Vorrei fossero porno, vorrei svegliarmi un giorno e sorridere così. Con i tuoi occhi falafel, verdi e marroni. Che questi giorni grigi hanno rotto i coglioni. E giro come un vagabondo che non